Radio Popolare vi ha presentato La Caccia. Caccia, l'ideologico quotidiano. Una trasmissione a cura di Felice Accame e Carlo Oliva. Grazie a tutti voi per la cortese attenzione, grazie a Disma Pestalozza per la regia. L'appuntamento rimane confermato domenica prossima alla medesima ora. Buona giornata. E sapete perché il 25 aprile vi fa tanto arrabbiare, no? Perché è una delle poche volte che le hanno prese. Buona manifestazione a tutti.